Monti sempre più vicino alla nomina, sale di nuovo al colle. Van Rompuy, Sarkozy e Obama parlano con Napolitano e le borse riprendono fiato. Per gli industriali Monti può essere l'uomo giusto, ma il PDL si spacca, l'Italia dei Valori non ci sta e Sel mette i paletti. Inchiesta BPM, dalle carte una pista per i finanziamenti illeciti. Iran sempre nel mirino, gli Stati Uniti valutano la vendita di armamenti agli Emirati Arabi per una coalizione nel Golfo Persico. Allora una buona giornata dalla redazione di Laura Bettini. Oggi il Senato vota la legge di stabilità, poi alle 13.30, quindi ci siamo ormai, si terrà sempre al Senato un Consiglio dei Ministri per approvare la nota di variazione di bilancio, domani toccherà alla Camera, ma sul dopo si discute ancora. Tutto porta a Mario Monti Premier, anche le sue ripetute salite al Quirinale, ma se la politica internazionale sembra concordare, non tutti sono dello stesso avviso in Italia. Per Monti oggi, tra l'altro, è stato oggi anche il primo giorno in aula da senatore, dove è stato accolto con un lungo applauso e lui ha risposto con un inchino. Però cominciamo dall'inizio. Vincenzo Miglietta in diretta con noi da Roma. Monti di nuovo al Quirinale. Sì, buongiorno, è così, è la seconda volta in poco meno di 20 ore. Monti aveva avuto un colloquio con Napolitano già ieri pomeriggio. È vero che intorno all'attuale presidente della Bocconi si deve ancora verificare l'eventuale maggioranza, ma certamente il Colle sta lavorando affinché una volta varata la legge di stabilità, la transizione da Berlusconi a Monti possa essere la più rapida possibile. Ecco perché la nuova salita al Quirinale, secondo indiscrezioni che trovano più di una conferma, Monti avrebbe già stilato una sua squadra di governo, una propriamente tecnica che andrebbe da Saccomanni e Bini Smaghi ai ministeri economici, ad Amato agli interni, chino a welfare, Baratta ai beni culturali e poi un esecutivo con alcuni politici, Enrico Letta e Buttiglione, più alcune conferme dell'attuale governo, Frattini, Fitto e Nitto Palma. Come detto, il cambio a Palazzo Chigi potrà esserci appena sarà approvata la legge di stabilità, che contiene il maxi emendamento che recepisce le misure per lo sviluppo concordate con l'Europa. Il provvedimento è alle battute finali al Senato, sarà approvato entro un'ora, passerà quindi alla Camera per il via libera atteso per domani. Quanto ai contenuti li ricordiamo brevemente: dalla stretta sugli statali in mobilità, l'età pensionabile a 67 anni dal 2026, agevolazioni nel lavoro per donne e giovani, aumento delle accise sulla benzina, riduzione dei tagli all'editoria, liberalizzazione dei servizi pubblici locali, abolizione delle tariffe minime per i professionisti. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. La presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, stamattina ha lanciato un nuovo appello a tutte le forze politiche affinché trovino un accordo per il bene del paese. Su Monti ha detto: in un momento difficile come questo può essere la persona giusta. Non tutti però nel mondo della politica sono d'accordo. Allora facciamo il punto. Alessandra Schepisi, sempre da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. È così, PDL più che mai diviso in queste ore sull'appoggio all'esecutivo tecnico di larghe intese. La decisione finale sarà presa nella giornata di domani, quando verrà convocato l'ufficio di presidenza del partito, ma per il momento le posizioni sembrano rimanere distanti. Ci sono alcuni big come Frattini pronti a dare l'appoggio a un governo a guida Monti, c'è chi come un gruppo di ministri e gli ex AN guidati da Matteoli che spingono per le elezioni anticipate. Sentiamo allora il ministro delle infrastrutture Matteoli. Ho detto che è persona autorevole, io ho ritenuto e ritengo che fosse più utile andare al voto, tutto qui, ma no, non è un giudizio nei confronti della persona che viene scelta, assolutamente. Ieri Silvio Berlusconi, che ha avuto una lunga discussione prima a Palazzo Madama con i senatori, poi durante un vertice a Palazzo Grazioli, ha ribadito di essere disponibile a dare un suo appoggio a un governo di unità nazionale guidato da Monti, accantonando per il bene del paese quella che a suo dire è la via più limpida, cioè le elezioni. Un cavaliere determinato comunque a giocare un ruolo di forza nel nuovo esecutivo, e spunta anche l'ipotesi di appoggio esterno che potrebbe rappresentare un compromesso tra le varie anime del PDL, così come è spuntata anche l'ipotesi di Lamberto Dini alla guida di Palazzo Chigi, un nome che Berlusconi avrebbe messo sul tavolo della trattativa, ma il diretto interessato commenta: ormai è chiaro che si va verso un governo Monti. Quanto alla Lega, la posizione è netta, diremo no ad un esecutivo tecnico e se ci sarà andremo all'opposizione, dunque alleanza che sembra in bilico tra PDL e Lega, stessa posizione espressa dall'Italia dei Valori che insiste: non mi fido della coalizione che c'è dietro, non daremo nessuna fiducia al buio. Una posizione questa criticata dal leader del PD Bersani, che chiede all'Italia dei Valori di ripensarci perché prima viene l'Italia, poi le alleanze e la politica, mentre la capogruppo del PD al Senato Finocchiaro si dice certa che Mario Monti ce la farà. Sentiamo. Io mi auguro assolutamente di sì, per il bene dell'Italia prima che per la soddisfazione del mio partito. È uno dei migliori italiani che ci sia in circolazione. E infine nella posizione di Sell sì ad un governo tecnico, ma che sia a tempo e con obiettivi mirati. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Allora, dopo questa pagina di cronaca e di aggiornamenti, Valeria De Rosa, come reagiscono i mercati oggi? Buongiorno, ben ritrovata a te Laura e ai nostri ascoltatori. Oggi diciamo che può essere considerata come una giornata di pausa per i listini, i timidi rialzi. In questo momento Parigi guadagna un 0,61%, Francoforte lo 0,99%, Londra in rialzo di meno di mezzo punto percentuale, più 0,43%, a Milano il FTSE MIB guadagna l'1,14% e il FTSE share l'1,05%, ma possiamo dire che Milano era arrivata a guadagnare oltre 2 punti percentuali. Per quel che riguarda lo spread, anche qui si registrano rialzi. In questo momento il differenziale tra BTP e Bund è a 491 punti, il rendimento è al 6,68%. Torniamo velocemente sul listino principale, dove il miglior titolo resta la Banca Popolare di Milano, riammessa in contrattazioni più 11,05% il rialzo in questo momento, in pregilo guadagna il 4,66%. Telecom Italia, una buona giornata anche per il titolo Telecom, più 4,20%, oggi ha diffuso i dati. Ricordiamo che per quel che riguarda la Banca Popolare di Milano, oggi è l'ultimo giorno utile per negoziare in borsa i diritti di opzione dell'aumento di capitale. In difficoltà invece i titoli della Galassia Lingotto, Fiat il peggior titolo, cede un punto percentuale, e per quel che riguarda i cambi l'euro viene scambiato 1,36,30 sul dollaro. E per i mercati è tutto. Grazie anche a Valeria De Rosa. Al di là delle posizioni nazionali, Monti comunque, come dicevamo con Vincenzo Miglietta, ha un sostanziale via libera internazionale, che il rapporto tra il Presidente della Repubblica e in particolare gli Stati Uniti sia solido non è un segreto e affonda le radici nel tempo. Fu infatti napolitano a compiere nel 1978 il primo viaggio negli Stati Uniti di un dirigente del PC in quanto tale per una serie di conferenze nelle università. Obiettivo politico, sponsorizzato allora da Berlinguer, far conoscere meglio il partito italiano agli americani, superare la diffidenza e la paura. Al microfono di Katia Caramelli, Emanuele Macaluso, neodirettore del Riformista. L'interesse di Napolitano per gli Stati Uniti, per la cultura, diciamo così, soprattutto dell'area del Partito Democratico degli Stati Uniti, è stato coltivato da Napolitano da sempre, anche se con la difficoltà appunto del Partito Comunista, che era molto schierato nella battaglia che allora c'era nel mondo diviso in due. E quando si è aperta una possibilità, ecco, lui l'ha subito colta, e devo dire con il favore anche di Berlinguer in quel periodo. Berlinguer già aveva mandato negli Stati Uniti i suoi messaggeri, Napoleone Colajanni, Ledda, per avere dei contatti che non fossero, diciamo così, molto ufficiali, però con personalità del governo. Napolitano da questo punto di vista ha sempre rappresentato un punto, diciamo così, essenziale per rompere questa barriera. E quando ha potuto l'ha fatto attraverso appunto questo varco culturale, però il suo interesse è stato sempre politico. Oggi in definitiva poi la parte non solo della cultura ma delle forze di governo, di opposizione negli Stati Uniti hanno poi apprezzato e capito che Napolitano poteva essere nella sinistra italiana un punto, diciamo così, di raccordo con una storia e con una vicenda che aveva visto sempre la sinistra italiana in rottura con gli Stati Uniti. Che accade in queste ore nel resto d'Europa? In Grecia il giuramento del nuovo governo ad interim sotto la guida dell'economista Papademos, che era previsto per oggi alle 14, ovvero le 13 in Italia, è stato rinviato di 2 ore per disaccordi circa i nomi dei ministri e sottosegretari che andranno a formare il nuovo esecutivo. La Commissione europea invece ha criticato intanto duramente lo scivolone sul rating della Francia di ieri da parte di Standard & Poor's. L'agenzia aveva diffuso una nota agli abbonati che faceva pensare a un taglio di rating sul paese, salvo poi smentire tutto successivamente. Un episodio grave ancor più perché riguarda la Francia. Sul significato di questo paese nel contesto europeo, Beda Romano. La Francia è importante per vari motivi. Prima di tutto perché è il secondo paese più importante della zona euro, più importante dell'Italia. Evidentemente, se anche la Francia dovesse essere sotto pressione dai mercati, la situazione diventerebbe estremamente, estremamente delicata. Il secondo motivo è più tecnico, ma è molto importante agli occhi delle autorità comunitarie. La Francia ha in questo momento un voto sul proprio debito alto, ed è il triplo A, che è il massimo possibile. Da questo voto dipendono tutta una serie di equilibri, a cominciare dal triplo A che è stato concesso al Fondo di Stabilità Europeo, l'IFSS. Per poter pagare un rendimento basso, questo fondo deve mantenere il triplo A. Il rischio, se la Francia dovesse perdere il proprio triplo A, è che anche il fondo perderebbe il proprio triplo A, con il risultato che l'intero assetto istituzionale con il quale l'Unione sta cercando di aiutare i paesi in difficoltà diventerebbe molto più oneroso e quindi molto più rischioso. Più in generale però che la crisi avanzi nel continente è un dato di fatto. L'ultima a tagliare per quanto riguarda l'Italia, la multinazionale degli elettrodomestici Whirlpool, che ha annunciato un piano che prevede un migliaio di licenziamenti nelle sedi italiane, poi ci sono i licenziamenti anche nelle altre sedi del mondo, in particolare si perderanno 600 posti di lavoro in provincia di Varese. Stefania Filetti, segretaria generale FIOM a Varese, coordinatrice nazionale per il gruppo Whirlpool, al microfono di Anna Marino. Abbiamo respinto all'azienda la possibilità che puntasse l'attenzione solo e unicamente sugli esuberi. Non ci stiamo. È un brutto modo di affrontare quelle che sono le questioni, soprattutto quando di mezzo, così come nell'annuncio avvenuto dell'azienda, ci sono delle dismissioni delle produzioni. Il numero di 600 esuberi negli stabilimenti varesini è un fatto gravissimo, un fatto pesantissimo, che non ci aspettavamo naturalmente di questa natura. E altrettanto grave è l'argomento che hanno usato, e cioè difficoltà di ordinativi, soprattutto per quel che riguarda una linea, una fabbrica di produzione, quella riguardante il side by side. Fai frigoriferi americani. Avete chiesto di aprire un confronto sul piano industriale? Sul piano industriale, esatto. Noi abbiamo chiesto quali sono le intenzioni dell'azienda, quali sono le prospettive di investimento e di sviluppo su altri prodotti. L'azienda sembra che almeno in questa prima fase abbia compreso questo aspetto, tant'è vero che è fissato un prossimo incontro il 17, settimana prossima, dove inizieremo proprio dal piano industriale. Tra pochi istanti la viabilità, ci ricolleghiamo con Roma. Vincenzo Miglietta, buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, solo per dire che la legge di stabilità ha ottenuto già il via libera dell'Aula del Senato con 156 sì, 12 no e un astenuto. Ora il testo passa alla Camera per l'ok definitivo che dovrebbe arrivare domani. A Palazzo Madama PD e Terzo Polo non hanno partecipato al voto, mentre l'Italia dei Valori ha votato contro. È tutto. Le 13:17, vi ridiamo la notizia con cui abbiamo chiuso la prima parte di GR24, la legge di stabilità approvata con 156 voti favorevoli, 12 voti contrari e un astenuto al Senato. I gruppi di maggioranza hanno votato a favore, i senatori del PD e del Terzo Polo sono rimasti in aula ma non hanno partecipato al voto. Il provvedimento passa ora a Montecitorio, dove il via libera definitivo è atteso per domani. Monti intanto è sempre più vicino alla nomina premier, è salito oggi di nuovo al Colle. Con il presidente napolitano hanno parlato oggi Van Rompuy, Sarkozy e nella notte anche Obama. Per gli industriali può essere l'uomo giusto, ma ci sono discussioni all'interno del PDL, l'Italia dei Valori non ci sta, Sel mette i paletti, le borse comunque riprendono fiato. E adesso riprendiamo la seconda parte di GR24 voltando pagina. Parliamo dell'inchiesta milanese per finanziamenti facili che vede indagato l'ex presidente BPM Massimo Ponzellini. Dopo le perquisizioni di ieri in più città, dalle carte emergerebbe una pista sulle ragioni di quel prestito che è stato definito incomprensibile dai PM. la Banca Popolare di Milano e gli affidamenti all'Atlantis B+, società di giochi d'azzardo con sede centrale nelle Antille olandesi, amministrata da Francesco Corallo. Si parla di un finanziamento per un totale di quasi 150 milioni che la Procura di Milano ha definito chiacchierato e incomprensibile. Dall'ondata di perquisizioni di ieri a Roma, Milano e Bologna potrebbe però emergere la spiegazione. L'ipotesi dei PM Roberto Pellicano e Mauro Clerici è che l'ex presidente di BPM Massimo Ponzellini abbia avuto un ritorno economico e al Sole 24 Ore risulta che la risposta potrebbe arrivare adesso dalle carte sequestrate negli uffici di Atlantis e nello studio di un commercialista bolognese che gestiva almeno una società amministrata da Rachele Ponzellini, figlia dell'ex presidente di BPM. Si parla di consulenze pagate da quella società sia da Atlantis sia da un altro protagonista del settore del gioco d'azzardo finanziato dalla banca milanese, la Sisal, la società che gestisce il Super Enalotto e il Totocalcio. Claudio Gatti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è il momento della nostra rubrica Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. A Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento, sono tutti poveri. Il 60% dei potenziali contribuenti non dichiara nulla. Incrociando i dati IRPEF 2009 con quelli della forza lavoro e con quelli del censimento, qualcosa però non torna. Lo hanno fatto notare gli studiosi del Centro Studi Sintesi di Venezia, che hanno redatto uno studio per Il Sole 24 Ore, dal quale risulta che il comune avrebbe la più alta infedeltà fiscale d'Italia. L'intera provincia di Agrigento non è da meno, con il 41% dei contribuenti che non contribuisce affatto. Qui la Guardia di Finanza nei primi 8 mesi del 2011 ha trovato 211 milioni di euro di imponibile non dichiarato. Certo, Palma di Montechiaro non è ricca. A parte le strade del centro storico, la maggior parte delle vie è senza asfalto. Sono più di 1000 le costruzioni illegali che non hanno diritto ai servizi pubblici come acqua e luce elettrica. A Palma non c'è una palestra, né una piscina, né una biblioteca, né un ospedale. C'è un solo asilo nido che presto chiuderà, perché il sindaco, Rosario Bonfanti, non ha i soldi per mantenerlo. Certo, se il comune collaborasse a far emergere l'evasione, magari potrebbero beneficiarne le casse municipali e i servizi per i cittadini. Per ora uno spiraglio c'è. Il comune ha firmato con l'Agenzia delle Entrate una convenzione per segnalare gli evasori. È uno dei pochi della provincia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda la politica estera, oggi gli Stati Uniti starebbero valutando la vendita agli Emirati Arabi Uniti di bombe, bunker buster e altre armi in vista della creazione di una coalizione nell'area del Golfo Persico per contrastare l'Iran. Così almeno riporta il Wall Street Journal. Un vento di guerra di cui l'Iran è consapevole ma senza cedimenti. In un colloquio con l'ANSA, infatti, oggi l'ambasciatore iraniano a Roma, Sayed Mohammed Ali Hosseini, avverte che Teheran non teme neanche le sanzioni e disegna lo scenario di una regione in fiamme se alla fine Israele dovesse lanciare i suoi caccia contro le installazioni nucleari della Repubblica Islamica. Torniamo in Italia oggi con la cronaca, cominciamo dalla Sicilia, ci sono novità sull'attentato in cui morì Paolo Borsellino. Non sarà la mafia a uccidermi, parole dette da Paolo Borsellino alla moglie Agnese il giorno prima di essere ammazzato a Palermo. In quel colloquio riportato dalla moglie del giudice ai magistrati, Borsellino parlò della convinzione che sarebbe stata la complicità o l'indifferenza dei suoi colleghi a permettere che lo uccidessero, e di questo riferisce la signora Agnese. Paolo era certo, il magistrato infatti sentiva vicina la propria fine, e a confermare quello che era più di un presentimento fu un episodio avvenuto un mese prima, quando Borsellino venne a sapere che era stata inviata una nota alla procura di Palermo all'indirizzo del suo capo, il procuratore Gianmanco, sulla preparazione di una strage per farlo saltare in aria con l'esplosivo. Borsellino chiese spiegazioni a Gianmanco soprattutto sul perché non ne fosse stato informato, e il capo gli rispose di aver mandato una nota alla procura di Caltanissetta senza ritenere opportuno informarlo. Nei dialoghi tra Borsellino e la moglie, anche le confidenze di essere venuto a conoscenza dei colloqui tra mafia e parti infedeli dello Stato, e anche di avere saputo che il generale Subranni, allora comandante del ROS dei Carabinieri, fosse punto conosciuto, ovvero un affiliato di Cosa Nostra, fatto che, dice la moglie, lo sconvolse. Confidenze queste raccolte da magistrati di Caltanissetta, che ora le hanno inviate ai colleghi di Palermo, che indagano sulla trattativa tra mafia e Stato. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Salerno il GUP Elisabetta Boccassini si è ritirata in Camera di Consiglio per decidere sulla sentenza a carico di Danilo Restivo, che è l'unico imputato per la morte di Elisa Claps. Il processo si è svolto con il rito abbreviato e a porte chiuse. Andiamo ora a Milano, dove oggi c'è stata una manifestazione di studenti un po' movimentata. Ci sono stati momenti di tensione questa mattina al corteo degli studenti delle scuole superiori a Milano. Circa 400 ragazzi, coordinati dalla Rete Studenti Milano, sfilavano per una manifestazione contro la crisi economica e a favore della scuola pubblica. Primo momento di tensione in piazza Cadorna, quando i giovani, che si proteggevano dietro scudi di polistirolo, hanno lanciato pomodori contro le forze dell'ordine. Quando la situazione è tornata alla calma, il corteo ha proseguito, ma improvvisamente ha deciso di modificare il tragitto rispetto a quello previsto. A questo punto gli studenti sono venuti a contatto con le forze dell'ordine. Spintoni e qualche colpo di manganello hanno fatto desistere la manifestazione dal cambio di tragitto. Il corteo ha quindi proseguito verso il provveditorato degli studi, senza che si registrassero ulteriori tensioni con gli agenti. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Bosco di San Francesco d'Assisi viene riaperto oggi dopo un anno di restauro da parte del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Il vicepresidente esecutivo del FAI, Marco Magnifico, intervistato da Adriana Fra. Si svela l'altra metà di Assisi. Il pubblico, decine di milioni di persone che sono venute ad Assisi, conoscono solamente l'Assisi che c'è al di qua del meraviglioso enorme muraglione che chiude la piazza della Basilica Superiore di San Francesco. Oggi si apre un portone e da questo portone si entra nell'altra metà di Assisi, fatta di boschi, di oliveti, di coltivi, di un torrente che è il Tescio, col piccolo complesso benedettino del 200 di Santa Croce, tutto un mondo che in effetti viene restituito, ma viene anche scoperto per la prima volta dai turisti. La gestione del paesaggio non soltanto restituisce al godimento estetico il paesaggio stesso, non soltanto lo restituisce all'agricoltura, perché noi faremo l'olio qua e da tanti anni non si faceva più, ma soprattutto consolida e vuol dire quindi proprio la manutenzione, la gestione del paesaggio che ha una funzione fondamentale proprio per la tenuta del paesaggio stesso, quindi contro le frane. E per fortuna noi FAI abbiamo avuto in donazione fra Levante e Monterosso circa 50 ettari su Punta Mesco, dove proprio riprenderemo anche lì un grande progetto di restituzione di paesaggio, di ricostruzione dei terrazzamenti, quindi questo forse è il grande lavoro che aspetta l'Italia nei prossimi anni. E ci avviamo alla chiusura di questo GR24, ci sono aggiornamenti sull'elicottero caduto nella provincia di Macerata di cui abbiamo parlato nelle scorse edizioni. I passeggeri a bordo, che sono tutti purtroppo deceduti, sono tre italiani e non svizzeri come era risultato in un primo momento. L'elicottero è caduto a Cingoli, i vigili del fuoco di Macerata hanno identificato le vittime, si tratterebbe del pilota e di due passeggeri, un avvocato e un commerciante. Queste le notizie al momento ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Laura Bettini. In regia ringraziamo Pietro Lacorte, in assistenza Alessandra Tedesco. Ci ritroviamo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.